Dog, la realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Coloro che si aspettano sempre da questa trasmissione un frisson d'allegria, di trasgressione, di ironia, che vogliono divertirsi, che vogliono sentir maltrattare le persone, vogliono sentire il ronzio della motosega sui garretti indifesi degli ascoltatori che cercano di abbozzare un loro pensiero non attinente, non pertinente a quello che è il tema della trasmissione, questa mattina, se questo cercano, fanno meglio a cercarsi un'altra radio. Questo non dovrebbe mai dirlo un conduttore di trasmissione, ma questa mattina faccio una trasmissione prettamente pasquale, nel senso e nell'accezione più reale della Pasqua. La Pasqua è un momento importante per chi ha una visione religiosa della vita. Uno può condividere, non condividere una visione religiosa della vita, ma non può fare a meno di considerare che questo è la Pasqua. La Pasqua non è altra cosa, la Pasqua non è questo lungo ponte che ci preoccupa per il maltempo, la Pasqua non è mangiarsi gli agnellini o fare campagne in rete mostrando immagini splatter terrificanti, gli agnellini sgozzati, dicendo guarda che bestie chi sgozza i poveri agnellini, e improvvisamente l'umanità si sente è trasportata verso la sorte degli agnellini, non si accorge, ahimè, dei tanti agnelli, esseri umani che hanno accanto, probabilmente non sgozzati in questa maniera o anche sgozzati in questa maniera. In questa summa di paradossi io voglio dare un senso alla Pasqua, un senso anche religioso per chi ha una visione religiosa della vita, un senso di interesse che vada oltre la semplice realtà percepibile, la semplice realtà concreta. Io questa mattina parlerò di rete, sono anni che parlo di rete, anzi semmai passerò miseramente alla storia dei conduttori radiofonici, vi passerò perché sono stato forse il primo che mi sono reso conto, facendo radio, che esisteva un mondo che si cominciava a muovere in un'altra realtà, in un'altra dimensione dell'esistere, che poteva tranquillamente convivere con quella che ci permette tutti i giorni di stringere la mano delle persone, salutare altre persone, imbatterci con altre persone, sentire l'odore sgradevole di altre persone, sentire la seduzione del profumo di ancora altre persone. La rete ha cambiato notevolmente la nostra percezione del mondo, della vita, delle relazioni. Noi ormai galleggiamo in rete come se galleggiassimo in una dimensione condivisa della nostra esistenza. Beh, questo non è proprio una cosa che è sempre stato così. 10-15 anni fa, ma anche meno, 10 anni fa, anzi ancora meno, 5-6 anni fa, da quando esistono i social media, da quando il social networking è una delle attività più comuni, più banalmente perseguite da tutti, anche inconsapevolmente, noi non ci rendiamo conto che noi stessi viaggiamo al di là della nostra connotazione fisica, della nostra equazione esistenziale, dei limiti dati dalla nostra data anagrafica, dalla nostra forma fisica, dal nostro status sociale. Noi siamo anche altro oltre quello che il mondo ci percepisce materialmente e concretamente. Beh, per definire tutto questo si entra in un campo che è anche quello della teologia. Questa mattina ho in studio Antonio Spadaro. Antonio Spadaro, buongiorno. Buongiorno. Antonio Spadaro, abbiamo già sentito altre volte in questa trasmissione, una persona che io conosco da vari anni, ma vedo oggi concretamente per la prima volta. Eppure ero convinto di conoscerlo, mi sembrava di sapere tutto di lui e rimango di questa impressione pur avendolo visto. Antonio Spadaro è un gesuita, anzi è un importante gesuita, direttore della Civiltà Cattolica, e ha scritto un libro molto interessante che è un po' la summa del tutto il suo investigare in rete di questi anni. Io lo conobbi addirittura in Second Life 5-6 anni fa, era un avatar, entrava in quella sorta di dimensione in cui l'umanità amava rappresentare se stessa in una metafora antropomorfa, in una protesi, un prolungamento di se stessi. Ha scritto questo libro interessante che si chiama Cyberantologia, pensare il cristianesimo al tempo della rete, edizioni Vita e Pensiero. Antonio Spadaro, è stato per te una scoperta o è stato per te il desiderio di raccogliere un'esperienza, scrivere questo libro, cioè considerare che l'umanità ormai non è più soltanto quella che si vede, ma vive e si incontra e si percepisce in una dimensione parallela? Questo è molto originale, sì, però, sì, comprendo. Sì. No, è molto curioso, hai detto cyberantologia anziché cyber... Ah, cyberteologia, scusami, cyberteologia è il titolo. Ma è interessante, che è anche il nome del tuo blog, che ho già linkato in tutti i luoghi possibili. È un cyberteologo, è colui che cerca comunque tracce della presenza divina nel mondo parallelo, che è quello in cui gli umani si incontrano, al di là della loro connotazione corporea. Sì, ma è molto curioso, perché effettivamente si fa fatica a mettere insieme queste due parole, il mondo cyber e il mondo della teologia. Lo sai perché ho detto antologia? Sì. Spiego subito il mio lapsus, perché sono anni che ti seguo nei luoghi paralleli. Grazie. E questa è la summa di tutto quello che hai scritto, fatto e pensato. Sì, di fatto sì. Ma hai proprio ragione, cioè la rete non è un altro mondo, non è un mondo virtuale, nel senso che è un mondo completamente staccato e separato dalla realtà. Oggi il problema non è quello di usare bene uno strumento, ma è di vivere bene al tempo della rete. E se vuoi, questo libro nasce esattamente dal fatto che, dall'esperienza concreta, direi, per cui mi sono reso conto come non ho una vita schizofrenica, cioè non ho una vita online e offline come se fossero due cose completamente diverse, ma la mia capacità di conoscere la realtà, di conoscere il mondo, di stabilire delle relazioni, ma anche di pregare, quindi la mia vita di fede, si intreccia radicalmente, direi strutturalmente, con il mondo della rete. Ma non potrebbe essere diverso, perché se ci pensi, la parte emotiva preponderante dell'umanità oggi si muove nella rete. Le persone si appassionano attraverso la rete, le persone si conoscono attraverso la rete, conoscono se stessi, escono dai loro limiti attraverso la rete. Questo, volenti o nolenti, è una realtà vera, reale, concreta, percepibile. Tu hai detto: sono una persona normale, non sono schizofrenico. Io invece sono stato sempre accusato negli ultimi 20 anni di essere una sorta di folle, un depravato, un maniaco, una persona schizzata. Mi guardano come dire: tu che stai più tempo in rete che nella vita. Ma mi rendo conto che oggi popolo la stessa umanità, vivo la stessa umanità che tu guardi come prete, come persona che deve comunque portare un valore e testimoniare un valore. Ma la rete è un ambiente, ripeto, non è uno strumento, quindi è un luogo di vita, un luogo in cui si vive. E la schizofrenia non ha luogo, se vogliamo è un momento di passaggio, cioè è chiaro che le persone possono idolatrare la rete e viverla come un mondo separato, un mondo a parte. Tu dicevi bene, ricordavi bene che noi ci siamo conosciuti in Second Life, e dicevi che io ero un avatar. Indubbiamente in qualche modo sì, ma io non sono un avatar, sono me stesso. Anche nel momento in cui entro in un mondo virtuale, nel quale sono entrato per capire bene come funziona, no? come si vive in quel mondo, anche in quel momento io ero me stesso. La mia moralità, la mia libertà, la mia spiritualità è esattamente quella che io ho sempre, ordinariamente. E come ho conosciuto te, ho conosciuto tra l'altro anche delle persone non italiane, sacerdoti addirittura, che hanno creato delle realtà di preghiera liturgiche addirittura in Second Life di estremo interesse. Ecco, poi entriamo nello specifico quanto tutto ciò che noi conosciamo o che si conosce come pratica, come teologia, come quotidiana testimonianza di una propria visione del mondo possa tradursi poi in questo luogo abitabile. Abbiamo però definito che la rete è qualcosa che si abita. Sì. E questo è un grosso passo avanti. Ancora per molti è uno strumento utilissimo, fa parte della capacità dell'uomo di comunicare, c'è l'idolatria della comunicazione. Ma hai notato che però nella velocità in cui si è costruito questo mondo da abitare, che non è un mondo virtuale, e su questo mi sembra che siamo perfettamente d'accordo, è avvenuta già una prima importantissima rivoluzione, dei grandi scismi. I padri fondatori di questa rete, i profeti, usiamo un mondo di riferimenti che ci avvicina a quello che è il tema di oggi, sono stati velocemente portati sugli altari. Parlavamo poco fa del fondatore della Apple, di Steve Jobs. Appena morì Steve Jobs sembrava che fosse salito al cielo un santo. Biografie immediate, idolatrie, gente che piangeva, la famosa frase siate affamati, tutti la scrivevano, dell'ultima reggitrice di Ramazza che scriveva su Facebook piangendo, non sarà più tutto come prima. Sono passati pochi mesi, già è dimenticato, già è stato denigrato, buttato nel fango, sfruttatore di cinesini, schiavista, terrificante. Questo è importante, perché quello che avviene nella storia delle regioni in secoli, nella rete è avvenuto in pochi mesi. Sì, adesso la mia domanda in realtà è questa: chi è che può piangere per il costruttore di una macchina, o chi può piangere per il CIO di una grande azienda? Cioè, perché c'è stata questa reazione emotiva così grande? Perché questa la rete è stata altro, la domanda. Perché la rete esattamente. Cioè, perché Steve Jobs è una figura estremamente interessante anche nell'evoluzione del suo pensiero, del suo stile di vita, della sua capacità di comprendere come il computer non è una macchina, ma è una, in qualche modo un'estensione della mia capacità di conoscere il mondo e di relazionarmi, e quindi la sua percezione dell'importanza della metafora, dell'interfaccia, ecco, da questo punto di vista è stato un genio. Se la gente quindi lo ha pianto più di altri, o comunque lo ha riconosciuto come una figura simbolica che ha toccato l'emotività, è perché queste macchine non sono macchine. Questo, su questo sono perfettamente, le macchine sono questo, aspetta, diamo il numero di telefono 800 24 0024, se no ci appassioniamo in questo dibattito fra me e il padre gesuita e non vediamo motivi di intervento. Invece vorrei che tutti voi che mi avete seguito in tutto questo tempo, che siete testimoni imperterriti e a volte appassionati di quello che diciamo, siete denigratori o aficionados senza riserve di tutto quello che viene prodotto in questa trasmissione negli ultimi 10 anni, voi che da sempre state a rete, portate a questo punto il vostro punto di vista, perché questo mi interessa. Chi vive la rete e chi si rende conto che ormai la rete è qualcosa di normale, di banalmente facente parte del proprio tempo quotidiano, ha la percezione che qualcosa sia profondamente cambiato, che il suo punto di vista rispetto al mondo, rispetto all'assoluto, rispetto al materiale e il materiale sia mutato da questa sua frequentazione. Antonio Spadaro ha detto una cosa che condivido molto: le macchine non sono macchine, le macchine sono delle metafore, sono i momenti. Tu dici che in realtà il touchscreen, il fatto che ormai le macchine si tocchino, sono sempre più incorporate. Noi arriviamo al punto che le periferiche d'accesso a questo grande mondo che è la rete non saranno nemmeno più percepibili, le avremo addosso, noi saremo dentro la rete a tutti gli effetti. Hai notato un'altra cosa rispetto all'idolatria degli umani che hanno fondato la rete? Che in realtà poi queste persone hanno assunto nella loro parabola pubblica, nel marketing della loro immagine, dei punti esteriori, estetici, dei punti di forza, proprio però della vostra, nostra mistica cristiana. Guarda Steve Jobs, la sua fase ultima era una persona macilenta, macerata, colpito dalla malattia, sembrava quasi un padre nel deserto, ormai astratto completamente dal suo corpo terreno. Il martirio della sua malattia si portava addosso, e nonostante questo aveva in mano gli strumenti della grazia che lui propinava agli altri. L'ultimo iPad è stato l'ultimo grido prima che lui morisse, da allora in poi tutte ciofeghe sono venute da quella parte lì. Sì, difatti la questione che poni è importante, perché dice quali sono oggi le metafore della trascendenza, cioè quali possono essere oggi le metafore per dire quelle immagini o situazioni di vita spirituale che noi siamo sempre stati abituati a vedere con il linguaggio, le immagini più tradizionali. Certamente Steve Jobs ha in sé avuto in sé qualcosa di religioso, ma devo dire anche un suo famoso discorso all'Università di Stanford ha toccato dei temi caldi della fede, e soprattutto il rapporto con la propria morte, quindi col senso della propria vita. Quindi indubbiamente nell'ambito della tecnologia sta diventando un luogo in cui si spendono metafore di significato teologico. Ecco, non trovi questo che, mi interessa, che anche in rete si creino, e questo dovrebbe preoccuparti a te come prete, delle metafore di sopravvivenza ed eternità che nulla hanno a che fare con la vita eterna come appunto viene proposta da una religione. L'eternità in rete è una sorta di mondo di eternità digitale in cui tutto quello che abbiamo pensato, immaginato, costruito, come ci siamo relazionati, quello che abbiamo prodotto, potrebbe rimanere comunque in un file percepibile e recepibile dai nostri successori, e quindi noi eternamente viviamo in una rappresentazione. Il problema di fondo di questa eternità digitale consiste nel fatto che è un'eternità orizzontale, cioè una eternità basata su link, quindi su collegamenti. Non c'è uno sfondamento, la dimensione trascendente che è propria della fede implica un buco che la rete non ha. Però, questo è il primo problema. Serve un atto di fede. Ancora la rete all'interno non è riuscita a creare qualcosa di corrispondente alla trasmissione dell'atto di fede. E non lo può. Non lo può, perché è necessario appunto per la fede, la grazia è sempre dall'alto, è sempre gratis data, ma attraverso un buco, cioè non è deducibile da nessuna forma di collegamento, link o relazione orizzontale. E questa istanza della trascendenza, diciamo, che può essere in rete semplicemente surrogata, come giustamente dicevi molto bene tu. 800 24 0024, avete mai avuto percezione di tutto quello che stiamo dicendo il padre gesuita e io qualcosa che comunque ha attraversato la vostra, durante la vostra testa, la vostra mente, i vostri rapporti, i vostri discorsi, durante le vostre frequentazioni in rete? Da quando a casa mia abbiamo il Facebook, sia io che mia moglie, io trovo i messaggini di mia moglie tipo spendi i panni, vai a fare la spesa, eccetera, eccetera, nei messaggi privati che ci scambiamo tra di noi. Avevo detto che mi sarei iscritta a Facebook per venirti a trovare e non ci sono riuscita perché il mio tempo davanti al computer chiaramente mi si è bruciato il sugo e i bambini mi hanno fatto una bella ramanzina perché dicono che perdo tempo davanti al computer invece di pensare alla cena. Facebook offre l'illusione di migliorare la vita reale. Vedo profili di persone che conosco molto bene, che hanno una vita reale veramente molto piatta. Non so, sul Facebook rinascono, assumono comportamenti che nel quotidiano non azzarderebbero mai. Ecco, Antonio Spadaro, abbiamo fatto un mix di messaggi scaglionati nelle varie epoche in cui noi ci siamo posti nei confronti della rete come uno strumento di interfaccia, di un collettore in cui si potesse discutere, si potesse entrare dentro e fuori. Vedi diversi atteggiamenti. All'inizio si entra in una dimensione che era semplicemente il motivo, la scusa, il pretesto per poi incontrare di persona chi costruiva la radio, chi faceva la radio, i conduttori della radio. O viene a vista con il suo atteggiamento punitivo, come un luogo in cui si consumasse qualcosa di illecito, di clandestino e portasse via tempo alla vita reale. Il tempo della rete è un tempo rubato alla vita reale, alla vita concreta. E poi alla fine invece la percezione è sempre più che non è un tempo rubato alla vita reale, è il tempo reale, il tempo di questa contemporaneità. Ma indubbiamente la rete spinge anche all'esibizionismo, ma perché? Cioè a dire se stessi in continuazione. Perché la rete in questo momento è immatura, cioè è una fase di crescita. Io non accuserei la rete in quanto tale. Direi che il problema di fondo è questo. Essendo la rete un ambiente della vita, fa parte della vita ordinaria, oggi non siamo ancora in grado di vivere questo ambiente in una maniera etica. Cioè non fa parte della nostra moralità ordinaria, è come se la rete fosse un mondo a parte, separato, dove vigono regole diverse, dove la mia identità non è la mia identità e io il sé è un altro. E il punto è uno sforzo di integrazione tra la vita reale e la vita in rete che ancora deve essere tutto fatto. Vedi, noi siamo partiti con l'idea di usare bene la rete. Abbiamo poi, spero, stiamo superando questo passaggio. Non è qualcosa che si usa, ma è il nostro vivere quotidiano. Esatto, e difatti siamo passati al passaggio vivere bene al tempo della rete. Ma ci sarebbe in realtà un altro passaggio ancora, molto importante e che sta nella vocazione, direi anche teologica, della rete stessa, come disse Teilhard de Chardin, cioè essere la rete. Questo è il punto. Quindi la realtà della rete non è qualcosa che sta fuori di noi o che sta fuori dal nostro orizzonte cognitivo, etico, relazionale, ma noi siamo rete. Io trovo abbastanza straordinario che siamo preti a dire questo, perché finora anche i più grandi osservatori, anche i guru, anche gli appassionati, anche l'elite che si è creata dei primi blogger non dice cose del genere. Vede la rete come uno strumento tecnologico in mano ad alcune persone che ne hanno per primo carpito i segreti e che dispensano, come se fossero dei sacerdoti che però di un culto che in realtà non appartiene a loro, le regole tecniche. Sentiamo qualche ascoltatore. Luigi, buongiorno. Buongiorno a tutti. No, io volevo dare un po' la mia esperienza riguardo alla rete, riguardo a tutti i device che oggi ci permettono di essere iperconnessi e perennemente collegati. Questi device, il telefonino, il tablet, il PC, qualunque altra cosa esso sia, sono praticamente stanno diventando delle protesi quasi innestate nel nostro corpo, che amplificano la nostra esperienza e ci danno possibilità di imparare cose nuove all'istante. Immaginate al supermercato, vedete un oggetto, vi collegate con lo smartphone, vedete le recensioni di quell'oggetto. Oppure ancora quindi si comincia ad avere un rapporto più viscerale anche con il mondo concreto, che prima magari i nostri semplici sensi non ci permettevano di averlo così profondo, sensi magari poco allenati, perché non dobbiamo sentire più l'odore della selvaggina o capire dall'aria se cambierà il tempo, ci siamo un po' atrofizzati. La rete ci ridà una dimensione tattile e percettiva del mondo che ci circonda? Amplifica i nostri sensi e tra l'altro quella dell'integrazione, quindi quello che diceva prima Antonio Spadaro, Sì, che peraltro devo dirlo, non ho mai visto una persona così bipartisan nelle sue connessioni, ha un iPad in mano, un tablet Android e altri meccanismi addosso, quindi è connesso, ecco, a tutte le le dimensioni. Ecco, tra l'altro lui diceva prima che viviamo ancora la rete come un mondo separato. In realtà non è proprio così, perché l'esperienza della rete sta maturando e chi è dentro la rete da più tempo la vive come con la propria identità reale. Pensate poi ai nativi digitali, quindi ai ragazzini che oggi si affacciano su Facebook, usano la rete, la usano con la propria identità reale, usano le relazioni in rete come se fossero le relazioni quotidiane, con sommo paura con grande paura dei propri genitori, dicono: Dio ha messo il proprio nome sulla rete. Ci fermiamo solo un istante, devo dare le informazioni della bozza, riprendiamo fra un minuto con Antonio Spadaro, questo è il punto che mi interessa. Il culto del nativo digitale, secondo me, ancora è come un tavolo zoppo a cui manca una zampa. Il nativo digitale è senz'altro l'illuminante futuro, ma noi che siamo stati i colonizzatori digitali, la generazione che la rete l'ha vista crescere, in realtà avrebbe ancora qualcosa a dire, secondo me, in questo rapporto fra umanità e luoghi abitabili. A tra un istante. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog. La realtà condivisa. Perdi un sacco di tempo te col computer. Se perde la preghiera, non se prega più. Se sa che Google è un mezzo del demonio, perché perdi un sacco di tempo te col computer. Sto Facebook sembra apparentemente tutto bello, no? Perché il demonio ci dà tutte le cose belle, ci fa apparire le cose belle, apparenza ingannatrice. In realtà questo sito è fatto per consumare la vita, per farci battere il cuore, per scrivere quattro stronzate, capito? E tutta la gente che c'è. Stiamo parlando di rete e spiritualità, stiamo parlando in occasione dell'uscita del libro di Antonio Spadaro, Cyber Teologia, pensare il cristianesimo al tempo della rete. Ho detto già, questa è una trasmissione prettamente pasquale, nel senso più inequivocabile della Pasqua, quindi chi non la gradisce faccia altre cose, ma vedo che il pubblico ci sta seguendo. Edizione Vita e Pensiero. Senti Antonio Spadaro, anche la rete ha i suoi Savonarola, a suoi folli di Dio. Questo è un ragazzo predicatore che in totale buona fede comunque usa la possibilità di autoproporsi della rete per annunciare Apocalisse, vedendo la rete, che è il luogo che tu analizzi da prete, da teologo, da gesuita, come luogo in cui sta accadendo qualcosa interessante, come luogo della massima abiezione. Pentitevi, sta arrivando l'Apocalisse, sembra quasi che sta per dire. Beh, non trovi interessante che però che tutti i passaggi che noi storicamente conosciamo nel rapporto tra uomo e assoluto li stia ripercorrendo velocemente nel giro di pochi mesi o anni la rete? Ma proprio perché dicevo che in rete troviamo delle metafore, no, della trascendenza, del significato della vita, le grandi questioni. Oggi vediamo che chi si pone una ricerca religiosa va in rete, assistiamo addirittura nella concretezza persone che sono interessate a entrare nella vita religiosa, che come primo gesto non vanno in chiesa a parlare con una persona, ma a cercare sul sito internet della congregazione dell'ordine religioso informazioni sullo stesso ordine. Quindi indubbiamente la rete ha a che fare qualcosa con la questione religiosa dell'uomo. Devo dire una cosa, fammi dire questa cosa che ritengo importante, cioè è vero, diciamo, che la Chiesa si è relazionata in maniera varia, diciamo differente, con i media, col tema della comunicazione. A parte che c'è stato sempre un grande interesse per quello che riguarda la trasmissione di un messaggio, pensiamo alla radio, e in questo la Radio Vaticana è stata pioniere, ma devo dire che il pensiero della Chiesa sul mondo della comunicazione oggi è estremamente innovativo. Lo stesso Benedetto XVI, in un recente discorso, ha detto chiaramente, si è chiesto chiaramente quali sono le sfide che il cosiddetto pensiero digitale pone alla fede e alla teologia. E quindi queste domande sono molto presenti addirittura a livello di magistero. Il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali è molto attento, quindi direi in realtà il pensiero della Chiesa in questi ultimi anni sta intuendo gli elementi importanti che dicevamo, appunto le metafore religiose che sono presenti in rete, il fatto che la rete sta maturando come luogo di vita. Ecco, io quello che posso dirti ho dal mio punto di osservazione di laico. Laico non significa un pasdaran del laicismo, che in realtà è pericoloso come una qualsiasi fissazione. Quello che in realtà forse sfugge in questo momento è che la rete non è un luogo controllabile, colonizzabile, non ha limiti. No. Rispetto alla radio, alla televisione, facciamo la nostra radio, facciamo la nostra televisione, abbiamo una presenza in cui siamo rappresentati nelle radio e televisione, questo è un po' più difficile. Il fantastico e anche ciò che più rende temibile la rete è il suo fatto che se qualcuno non ci pone limiti, e in questo momento vedo molto difficile porre limiti, la rete si autogenera, è una partenogenesi continua di qualcosa che noi possiamo soltanto cavalcare come si cavalcano le tigri, tenendoci sopra, standoci sopra, però stando attenti, se per un attimo uno perde il controllo ne viene divorato. Tocca l'immaginario, questo è il punto, cioè la rete con le sue metafore tocca l'immaginario e quindi fa reagire parecchio le persone, e da questo punto di vista non è controllabile. Un fenomeno che stiamo vivendo, per esempio, in questo momento, grazie a YouTube, per esempio, ai podcast, è il fare a meno del palinsesto, cioè i palinsesti stanno crollando. Quindi le trasmissioni, il broadcasting molto ordinato, legato a orari, legato a temi, quindi controllato, recintato, definito, preconfezionato. Ecco, tutta questa dimensione qui sta saltando. Sì, questo però è ancora l'aspetto un po' più arcaico della rete. La cosa fantastica è la relazione. La mutazione totale di tutto ciò che noi abbiamo sempre inteso come relazione. Non trovi che in realtà ancora non sappiamo dare nome alle relazioni della rete? Questo non siamo amici, non siamo fidanzati, esatto. Non siamo amanti, non siamo conoscenti. Siamo qualcosa che intimamente permette delle persone di frequentarsi, di conoscersi, di confidarsi, che però non è ancora umanamente definibile. Senza alcun dubbio, difatti questo è il problema della percezione dei social networks, perché noi definiamo followers, chi ci segue su Twitter, friends, amici, su Facebook. In realtà, se noi definiamo amicizie quelle su Facebook, indubbiamente dobbiamo dare un giudizio negativo, perché sono amicizie che in qualche modo vengono meno rispetto a quei canoni tradizionali. Beh, i canoni che io conosco amicizie sono che prima o poi le peggiori ferite della vita te le danno gli amici. Esattamente, perché sono gli unici che ti possono effettivamente ferire. Però noi ci conosciamo da anni e ci stiamo vedendo adesso per la prima volta e stiamo continuando un discorso aperto. Questo mi capita con molti amici nella vita reale, con cui sono in contatto sistematico, anche se non li vedo in continuazione, li vedo solo una volta. Ma se fossi un tuo amico, ambissi al tuo posto di direttore, probabilmente saremmo meno amici. Capisci che poi quando entrano degli aspetti concreti. C'è un altro fenomeno interessante che è legato agli strumenti di geolocalizzazione, che secondo me dà una chiave di lettura molto interessante. Perché? Immaginiamo strumenti come Gowalla, come Foursquare, certo, eccetera. Sono strumenti tecnologici, sono di fatto sistemi di condivisione, quindi in qualche modo dei social networks, no? Che quindi vivono assolutamente di rete. Ma a cosa servono? Servono esattamente a bucare la rete. Cioè, se tu segnali la tua presenza qui in questo palazzo dove c'è un caffè vicino, se c'è un amico, un mio amico nei paraggi, questo amico può segnalare la sua presenza e invitarmi. Cioè, in un mondo in cui le relazioni reali stanno diventando difficili da realizzarsi perché la gente vive a distanze incredibili o difficilmente colmabili, ecco, esattamente i social network, cioè la rete, viene in aiuto della realtà, cioè del rapporto reale. Sfonda i limiti angusti delle architetture sociali. Assolutamente. Esattamente. Sentiamo qualche ascoltore. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io ho cominciato a sentire la trasmissione quando si parlava di immortalità e eterno rispetto al problema della rete. E mi è venuto in mente una cosa: in realtà noi credo che siamo di fronte alla mutazione genetica di un fenomeno però che in qualche misura è sempre esistito, o meglio, è esistito da quando esiste il libro. C'è una bellissima, c'è un bellissimo racconto, mi pare, di Keno, in cui c'è una persona che ha fatto una tesi di dottorato su una materia, su un argomento assolutamente inutile, che vaga, la cui anima vaga senza pace per la Biblioteca Nazionale di Parigi, nell'attesa che qualcuno finalmente lo citi in bibliografia. E allora solo potrà riposare in pace, perché verrà consegnato alle generazioni successive, quindi diciamo gli verrà garantita una forma di immortalità. E poi la stessa cosa che scriveva Orazio quando diceva che la poesia era un monumento che era più duraturo, sì, del bronzo. Sì, però c'è una lieve differenza. C'è una mutazione genetica, sì, è planetarizzato, per così dire. Sì, lo sai qual è la differenza, però? La differenza che l'autore sfigato, che alla fine sarà citato in una bibliografia, rimarrà in un volume che sarà localizzabile e rintracciabile attraverso un percorso fisico. L'immortalità, fra virgolette, la persistenza in rete è immediatamente percepibile da qualunque condizione, da qualunque latitudine, in qualunque momento. Questa è la vertigine della rete. Andiamo avanti, faccio parlare qualche ascoltatore e poi risponderà tutti assieme Antonio Spadaro. Paolo, Ah no, scusi, Paolo, ha parlato Riccardo. Ah, buongiorno. Eccolo, piacere di partecipare con voi. Ecco. Io studio molto questo argomento perché è come se ci fosse un dualismo tra parte interna e parte esterna. La parte esterna è quella che deve essere comunicata e quindi nel mondo dell'apparenza il multimedia è proprio questo tipo di collegamento col mondo esterno, ma riflette tutto il conflitto tra interno e esterno. Però ben venga come mezzo compensativo per le persone che hanno disagi fisici o mentali e mettersi in comunicazione. Cioè tutta l'umanità, quindi, tutta l'umanità. Chiunque è di noi ha disagi fisici e mentali. È un bene comune che va preso per tale. Solo no, dico, ogni rappresentante della stirpe umana ha un problema fisico e mentale, altrimenti tutti, non sarebbe umano. È un deficit di potenziale individuale che deve essere coperto da mezzi compensativi, quindi una protesi ad una gamba, qualora non avessero il modo di camminare, una protesi agli occhi se avessero modo di leggere bene con gli occhiali, e altrimenti se non hanno modo di compensare le distanze come prima ti diceva, ben venga la rete. Adesso il vederla come un male, come l'origine del male, ma è un po' passata. Questa era, diciamo, un pregiudizio che è andato via via scemando. Quando la rete era un luogo da frequentare, si frequentavano postacci, il sito di Playboy, e la gente immediatamente si andava a flagellare. Oggi è ben diversa la cosa. Antonio Spadaro, su queste due telefonate. Sì, allora, certamente la prima telefonata si puntava alla questione dell'eternità digitale. Allora, l'eternità digitale pone la questione del perdono, secondo me, cioè nel momento in cui, o della conversione, nel momento in cui tu in rete hai tutta la tua vita, tu alla fine rischi di coincidere con ciò che di te c'è in rete, cioè con la tua identità digitale. Allora, come diventa un backup della tua diventa vita? Diventa un backup della tua vita. Non è possibile un reset, non è possibile riformattare il disco. Ma chi è il grande resettatore? Non esiste, perché appunto la rete non ha un assoluto esterno a se stessa. Quindi in realtà c'è una sorta di eternità, anche qui lavoriamo per analogie. Le nostre eternità sono limitate, se non saremmo umani. Sono assolutamente limitate, però durano quanto la nostra vita, e questo per noi è un problema. Allora, come si risolve? Come si risolve il problema? E purtroppo non si risolve. Diciamo che si risolve cambiando la percezione del nostro passato. Cioè, di fatto è così. Noi siamo costretti in qualche modo, saremo costretti a cambiare come umanità la percezione del nostro modo di il nostro modo di vedere il nostro passato e anche la rilevanza che questo ha per le relazioni successive. Senti Spadaro, devo dare la linea all'informazione del traffico, però vorrei che nella terza parte della trasmissione parlassimo un po' di questo rapporto di tradizione, trasmissione orale fra i nativi digitali, che sembrano fantastici, su cui tutti investono, e in realtà chi ha costruito in questo momento il momento di cerniera tra il mondo concreto, il vecchio antico mondo, e il mondo digitale. Melog, la realtà condivisa. Nella vita ci sono dei lati positivi e dei lati negativi. Si possono mantenere i contatti con amici magari lontani, per esempio un amico in Argentina che vedo solo durante l'estate e riesco a comunicarli anche durante l'anno. Un lato negativo è che quando si fa un errore, pur banale, rimane appeso nel web per anni e può essere accessibile a tutti. Antonio Spadaro, autore di Cyberteologia, Pensare il cristianesimo al tempo della rete, editore Vita o Pensiero. È la summa teologica di un prete che per anni ha frequentato con grande competenza e pertinenza gli ambienti della rete, facendosi conoscere prima come avatar, come linea di stato su Facebook e poi concretamente anche come teologo e prete. Senti, questo ragazzino è esattamente quello di cui noi volevamo parlare. È un nativo digitale, osserva la rete, per lui è l'unico mondo, è una sorta di privilegiato che nasce in una situazione di privilegio, ma comincia a osservare alcune cose che fanno parte delle tue riflessioni. Innanzitutto, la rete è bella perché toglie limiti spazio-temporali, posso parlare col mio amico anche se sta in Argentina, però in rete resta tutto, l'indelebilità della rete è indelebile, la rete può essere sovrascritta ma rimane tutto, e questo è molto legato comunque anche al concetto di vita eterna e di vita terrena. Tutto ciò che abbiamo operato non è che si cancella, si può cancellare soltanto totalmente nel momento in cui arriva il grande resettatore, che però in rete non c'è. No, sì, e dunque bisogna comprendere come la tecnologia, come disse anche un teologo, Tom Bodoin, che è un teologo cattolico, la tecnologia tecnologia è una metafora del bisogno di assoluto dell'uomo, perché di fatto l'uomo ha bisogno di relazioni quanto più ampie possibili e di conoscenza quanto più ampia possibile. E questa conoscenza e queste relazioni sono la descrizione che la teologia cattolica tradizionale ha dato del paradiso. Quindi di fatto è sempre stata una disciplina umanistica la tecnologia. Assolutamente. Oggi c'è questa errata dualità fra lo studio umanistico e lo studio tecnologico. Sono le stesse cose. Il tecnologico è un teologo, è un metafisico. Posso dire che la tradizione del pensiero teologico contemporaneo, la Teilhard de Chardin, ma direi Paolo VI in uno splendido discorso a un centro di calcolo e fino a Benedetto XVI, va esattamente in realtà in questa direzione. Cioè loro hanno sempre detto, la Chiesa ha sempre detto, che la tecnologia non è la ricerca della novità, ma è l'espressione della libertà dell'uomo e quindi anche della sua spiritualità. Quindi questo è un discorso estremamente importante. La tecnologia in qualche modo esprime il desiderio di assoluto dell'uomo. La questione che bisogna affrontare oggi è una questione di tipo educativo, cioè il nativo digitale non vede la rete come unico mondo, ma vede l'unico mondo in cui c'è la rete, direi meglio. Quindi comincia a non vedere una distinzione netta tra l'offline e l'online, cosa che invece i giovani ventenni, dai ventenni in su, ancora continuano a vedere. Perché? Perché sono stati formati da persone che hanno una cultura sostanzialmente lineare, quindi hanno vissuto una realtà di rete, quindi ipertestuale, architettonica, se vogliamo, del sapere e delle relazioni, ma formati a un linguaggio proprio della cultura lineare. Quindi sono ragazzi che rischiano la schizofrenia, perché vivono una realtà per la quale non hanno le parole. E questo problema lentamente verrà, è una crisi di crescita, diciamo di maturità della rete stessa, verrà superato nel momento in cui i nativi digitali diventeranno insegnanti, professori, educatori di coloro che vengono dopo. Ma sai, il problema è che i testimoni del mondo antico vanno via via rincoglionendosi senza avere in realtà approfondito gli strumenti di conoscenza di questo mondo. Forse sì, però certamente hanno dato e stanno dando delle indicazioni interessanti, a volte contraddittorie. In fondo noi rischiamo di essere le persone più fortunate in questo momento, mi dispiace quasi dirlo. L'ho sempre sostenuto. L'età di mezzo oggi è fantastica. Sì. Perché noi siamo cresciuti dentro una cultura lineare che ci ha dato delle categorie per poterne interpretare un'altra, riconoscendola come altra. La generazione di mezzo invece non ha questa possibilità, perché non riconosce la differenza. È un problema serio ma estremamente interessante. E non è detto che tutti i problemi abbiano questa mattina una risoluzione, l'abbiamo messo sul piatto. Sentiamo David. David, buongiorno. Buongiorno. Si esprima. Io voglio portare una visione opposta a quella dell'interpretazione teologica della rete. Grazie a Dio qualcuno dice qualcosa di diverso, ma ci piace. E, avendo animato e provocato una comunità di centinaia di persone, Vulcano, su Second Life per oltre 4 anni, io so come appunto la fede, il salto della fede, non sia necessario. Scusi David, nessuno questa mattina l'ha mai sostenuto. È chiaro, chiamo un prete, la visione del prete è questa, ma io rappresento il pensiero laico. È accaduto anche questo, che un prete frequentando la rete lo vede come una sorta di possibile luogo in cui si possa ricostruire quel rapporto con il divino, che è la ragione della sua vita. Ma esiste anche altri tipi, altre migliaia di visioni. Io so cos'è Vulcano e ho capito anche chi sei te, quindi va benissimo. Dimmi la tua esperienza di una sorta di utopia vissuta in rete. È uno strumento, quello di Vulcano, e in generale quello del transumanesimo. Io sono anche ex presidente dell'Associazione Mondiale dei Transumanisti, dove la razionalità è una scala di valori, è un appoggio che permette di non doversi appunto non dover utilizzare vecchi strumenti e vecchi aiuti. Ma questo è sempre, sì, Davide, è sempre esistito questo. Allora diciamo che il punto più estremo rispetto al mondo concreto è un fantastico vuoto, è il nulla. Poi il nulla ognuno lo riempie con le proprie categorie, tu lo riempi con il culto della razionalità e rispetto alla tua idea. Padre Antonio Spadaro lo riempie con l'assoluta visione di Dio. Questa è un'idea che rispetto. Antonio Spadaro. Io sono entrato in Second Life per la curiosità, indubbiamente, della di questo ambiente, ma anche perché mi sono reso conto dopo questo primo momento di curiosità che c'era gente che pregava. Cioè, sono partito, la mia indagine di tipo teologico è nata. Beh, tu fai il prete, non dobbiamo avere paura delle parole. Assolutamente, chiaro che, ma vorrei dire anche che sono, la mia curiosità è nata anche da qualcosa proprio di pratico, di empirico. Cioè, mi sono reso conto che in Second Life c'erano chiese, per esempio, e c'erano culti, c'erano degli evensong, per esempio, che sono queste forme, diciamo, della preghiera dei salmi, molto, molto presente nella tradizione inglese, no? E quindi gli avatar si riunivano. Trovavo luoghi in cui la gente pregava insieme o da sole, addirittura case di esercizi spirituali. Allora ho detto: guarda, il bisogno di Dio, il desiderio di Dio, la fede, la preghiera è presente anche nel mondo, in questa realtà. E mi sembra quanto di più ovvio ci possa essere. Allora, se il luogo fisico e concreto che aiuta il raccoglimento, aiuta l'astrazione, aiuta la preghiera, non è più la cappelletta di campagna, la cella del monaco, ma è il motor di un computer in cui c'è una realtà ricostruita, ma ben venga per chi ha questo tipo di attenzione. Senza opporsi, perché il problema non è quello di porre delle opposizioni, prima c'era la cappelletta, adesso c'è secondo me. No. Sono due realtà diverse che coesistono. Sentiamo Carlo, poi concludiamo. Velocemente Carlo, proprio in 30 secondi, così c'è modo di rispondere. No. Ciao Nicoletti. E grazie per l'opportunità. Veloce, sono da tagliarti, sì. In una battuta. Sono d'accordo sul fatto che purtroppo qualcosa di tecnologico, mentre lo zampino non ti possiamo sentire. Antonio Spadaro, ti ringrazio per averci dato modo di conoscere una realtà che spesso è poco conosciuta. Ricordo il tuo libro, Cyber Teologia, pensare al cristianesimo al tempo della rete. È Pasqua, chi vuole pensare alla Pasqua in questo senso, questo libro potrebbe aiutare a farlo in maniera del tutto diversa da quelle tradizionali. A domani.